terminal air. Killer of dreams. ...451 frammenti sonori in mia compagnia, ovvero di Max Macchia. Questa sera Rumori 00, una delle trasmissioni che stiamo dedicando agli anni zero. In questo caso, appunto, stiamo trattando una delle faccende più importanti che hanno attraversato il decennio appena trascorso, ovvero quella del rumore più estremo per alcuni casi, come ad esempio per quanto riguarda Giffoni, che ha chiuso la prima parte di 451 frammenti sonori, per l'appunto, e invece un rumore che va quasi a ripiegare su se stesso e diventa una sorta di implosione, quasi vicina a una sorta di ambient paradossale, un rumore che si contrae a tal punto con Ethenor e questo capolavoro, uno dei dischi sicuramente nello scorso decennio tra i più importanti, Faking Gold and Murder. Un rumore che quindi va a esplorare le zone più recondite, non più estroverso come buona parte, insomma, del rumore ascoltato nella prima parte della trasmissione, seppure anche i Pansonic avevano sicuramente come ascolto, insomma, l'abbiamo appunto uditi anche in un momento anche così dentro quella che era un'implosione del suono, quindi una sorta veramente di riaccartocciamento del suono rumoroso e dell'espressione più esterna, appunto, del rumorismo, con Ethenor e questo capolavoro. Tutto il disco è dentro questa possibilità data dal rumore, e una, insomma, delle esperienze che sicuramente legate ai rumori degli anni zero sta dando sia più figli in quanto, appunto, sonorità che vengono riecheggiate, addirittura una scena che per certi versi viene fuori da un metal che oramai comunque è veramente un lontanissimo ricordo, un drone che però si trasforma in una sorta di flusso post-isolazionista e quindi con un rumore tutto imploso che riecheggia forme anche sì, dentro sicuramente certi anni 90, vicini a certo Jim O'Rourke, che ad esempio abbiamo ascoltato nella prima parte, quello di Disengang, quello di Isolationist, storica compilation della Mute, che esplorava proprio queste possibilità date al rumore, ma con in più, appunto, questa forma teatralizzata di rumore, che vede anche un personaggio come David Tibbet interpretare, appunto, questa sorta di viatico dell'oscuro, del dark drone che diventa, appunto, materia sofisticata anche non soltanto a livello sonoro ma anche immaginativo, un disco che fa, insomma, correre anche una certa visionarietà. E da Ethenor rimaniamo ancora per un attimino in Europa, poi tra l'altro finiremo anche la puntata probabilmente con il nostro continente. Auf Geoben, terribile formazione, quindi se per il momento abbiamo trattato Pansonic, quindi un suono post-techno, post-glitch, un estroverso che viene espresso con Chesto, soprattutto un estroverso, un rumore chiaramente tirato fuori, con Ethenor si va, appunto, a ritrovare un'implosione di questo. E invece con Auf Geoben, anche per trovare una particolarità dentro il rumorismo europeo degli anni zero, c'è un'espressione che però viene filtrata, un'espressione piuttosto palese del rumore, del rumorismo, però, appunto, attraversata da correnti jazzistiche, addirittura improvvisative che danno le Off-Goben una sorta di marchio di fabbrica dell'impossibile, ovvero una sorta di suite jazzata vicina a una sorta di mondo vicino alla catastrofe. Cora è un gioiello in questo senso, proprio per una suite infinita e dolorosissima di rumorismo para jazzistico, ma anche paranoico, si potrebbe dire, per certi aspetti, se non che sono talmente parossistici Aufgehoben che suscitano anche una certa, se non ironia, comunque un certo sarcasmo nel loro trattare appunto questa materia sonora. In effetti Cora platonicamente proprio la forma che si dà alla materia, e lavorano appunto su questa formalizzazione di una materia che sembrerebbe veramente assolutamente non plasmabile. È proprio questo probabilmente la grande genialità di Aufgehoben, che appunto riportano veramente in maniera esplosiva il rumore dentro il nostro vecchio continente. un eroe del rumore come Prurient, veramente personaggio incredibile degli anni zero, partito già alla fine degli anni 90 da Providence, che per Fort Thunders diventerà una sorta di covo per terroristi sonori, per noiser veramente di proporzioni assolutamente brutiste e a volte veramente ai limiti dell'ascoltabilità, ma anche della concepibilità del rumore, visto che il filtrato rumorista di Prurient, non tanto in questo disco ma in dischi ad esempio come Black Vase, arriva veramente al parossismo, sventagliate di synth power electronics che ricordano i grandi White House, Merzbo chiaramente ascoltato nella prima parte insieme a Carlos Ghifoni. Poi Prurient si sposta da Providence verso New York, addirittura crea la sua etichetta Hospital Records sotto un negozio di reggae nei pressi di Manhattan, e la faccenda diventa assai curiosa perché da un suono così così cafone anche per molti versi, cioè veramente un power electronics che sembrerebbe fine a se stesso per molte uscite di Prurient, tutto un tratto con questo And Still Waiting, ma poi si fa per dire tutto un tratto, visto che ben altro che un cialtrone del rumore il nostro Prurient, o un cafone appunto di questo, con appunto il disco del 2008 fatto uscire per la Nofal Production di Carlos Ghifoni, il rumore prende una forma sinfonica, una sorta di veramente viaggio dentro il suono più doloroso, che però si immagina anche dentro appunto una grande scia che porta Prurient molto lontano anche dai luoghi musicali appunto fino ad allora visitati dal nostro americano ultrasonico, e va quasi a ritoccare quell'immaginario che abbiamo sentito in parte ad esempio con Ethenor, quella sorta appunto di drone scurissimo, quasi a solcare un punto di incontro assurdo tra l'America ultra noise e un'Europa sicuramente più moderata, perlomeno per quanto riguarda power electronics sventagliate di synth, circuit bandwidth e quant'altre diavolerie gli americani hanno creato nel corso degli anni zero, con strumentazioni di fortuna oppure strumentazioni maltrattate, synth che diventano sorte di strumenti di terrore, se non addirittura di tortura per molti aspetti. E comunque appunto un Prurient che nel 2008 dà una versione decisamente più articolata del suo power electronics, del suo noise per molti versi estremo, e fa scuola anche dentro quel rumorismo degli anni zero che vedeva protagonisti in America e vede tuttora, visto che la scena, per quanto qualcuno stia già intravedendo una sorta di morte di questa, in realtà è una trasformazione con anche esiti piuttosto così sorprendenti, tipo Emeralds, che partendo da droni decisamente rumoristi stanno arrivando a una sorta di ambient cosmicheggiante veramente di grande suggestione. Ma d'altronde già Prurient ascoltato di And Still Waiting fa questo. Air Police, anch'essi tremendisti, una costola di Wolf Eyes che ascolteremo uniti appunto ai nostri Air Police, che appunto partiranno tra qualche secondo. Negli anni zero anch'essi suono urticante, un suono che va a esplorare le frequenze più esasperanti pesanti, più debordanti e terrorizzanti, per poi approdare così magicamente, ma si fa anche con Air Police per dire, visto che poi tanti di questi noiser americani poi in realtà hanno una concezione molto avanzata di quello che è la manipolazione del rumore, e in questo caso infatti forse più che White House, seppur in un primo momento si può sicuramente porre riferimento a loro, bisogna andare magari più a cercare in un Merzbow più avant e più ricercato. Con questo non voglio sicuramente fare insomma differenze qualitative tra White House e Merzbow, entrambi geniali, però Merzbow ogni tanto ha quella caratura di compositore che forse a William Bennett and Company manca, però insomma qua la discussione è anche piuttosto aperta, con tutto l'amore insomma che posso avere per certe sonorità, insomma per chi conosce 451 frammenti sonori sa che spesso il rumore, e sa che appunto tutta la scena noise, non soltanto il rumorismo degli anni zero o per parte insomma europeo, ma soprattutto per parte americana, è stato piuttosto passato qua, quindi insomma mi sembro fuori da ogni sospetto, ecco, legato a sicuramente lontananze di insomma affezione per quanto riguarda rumorismi e noise vari. Con Air Police e con Constante del Tariff andiamo appunto su quel terreno più raffinato, alla Prurient di And Still Waiting, anche Air Police danno veramente, fanno scuola anche per molti versi, e danno un'immagine e un suono molto più articolato rispetto alle loro produzioni, anche per certi versi recenti, visto che poi anche Prurient non è che non è tornato poi a far male, a fare quel suono che per certi versi è stato considerato anche cafone, ma in questo caso appunto con Constantine Terrifi andiamo a trovare degli Air Police molto, ma molto se vogliamo, più raffinati, fatemi passare il termine, forse non è proprio quello più esatto. Thank you. autentico capolavoro, Arrived in Gold di Sightings, e forse dobbiamo a loro che buona parte del nuovo noise americano sia arrivato appunto in Europa, visto che questo disco forse per certi versi più suonato, ma poi qua veramente sì, si può parlare di più suonato, però con le dovute virgolette, visto che con Sightings si va a trovare sì quel suono che è anche memore soprattutto di quei fantastici e incredibili Chrome, soprattutto dei primissimi dischi, insomma, del duo Demon Age e Eros Creed, pietre miliari di un suono che crea il cyberpunk, che crea quella sorta di metallurgia dell'assurdo, del fantastico, addirittura del cosmico, un paradosso che una generazione industriale ha toccato forse solo con i Chrome, unendo appunto il suono cosmicheggiante, però è andato male, un cosmo visto alla Dark Star di John Carpenter, in sostanza, quindi anche paradossalmente quasi comico nel loro riciclare qualsiasi ferraglia e far suonare anche le strumentazioni classiche tra virgolette come tali, come ferraglia appunto buttata dentro una sorta di discarica assolutamente creativa. In sostanza queste parole legate a Chrome si possono unire anche a Sightings, ad Arrived in Gold e a tutti i dischi degli storici, oramai si può considerare così, degli anni zero Sightings, che hanno una particolarità sicuramente rispetto agli altri americani che stiamo ascoltando e che per parte ancora ascolteremo. Non è soltanto, appunto, avete sentito, una trasmissione dedicata al rumorismo americano appunto negli anni zero, abbiamo anche sentito e finiremo anche con l'Europa, seppur sicuramente i principali artefici del suono brutista sono assolutamente gli americani, con buone anche filiazioni poi in Europa, e alcuni poi personaggi originali, magari provenienti da vecchie genie rumoriste, sicuramente anch'essi importanti, ma con appunto un'America, e con l'America di Sightings si va a ritrovare appunto quel rimosso per tanti anni, quel suono cromatico, fatemelo passare, come Chrome appunto, che si era disperso poi in mille rivoli musicali, anche crossoveristici se vogliamo. Invece con Sightings si va proprio a ritrovare quell'attitudine di recupero, appunto di riciclo, se vogliamo, della discarica urbana, metropolitana, del suono più più assolutamente urticante, più legato alle scorie musicali, ma appunto attraverso una costruzione assolutamente geniale, Sightings lo fanno rivivere come struttura musicale anche piuttosto forte, e non soltanto in questo senso si possono considerare dentro il movimento noise americano, seppur appunto la particolarità di Sightings, che è già quella appunto che vi dicevo ora, è anche quella di aver pubblicato poche cose, non tantissimi CDR, non tantissimi vinili, non tantissime MP3, non tantissime esplorazioni live, ma molto poche rispetto appunto ai protagonisti, si fa poi per dire poco, visto che si tratta comunque negli anni 2000 di una decina d'uscite, quindi insomma non roba così, insomma, da tutti, però rispetto alla 50-60 ad esempio di CDR e quant'altre diavolerie fatte uscire ad esempio da Wolf Eyes, ascolta di prima, degli Air Police, da Prurient e compagnia rumoreggiante, sicuramente Sightings sono molto più mirati, come probabilmente anche le loro musiche, che sono appunto di natura sicuramente più geometrica. e con sightings toccando la geometria del rumore, invece ci spostiamo su air conditioning, dove invece si tocca la punta così ridicola quasi del rumorismo, un rumorismo che in weakness tocca vette appunto parossistiche, termine che questa sera ha veramente largo raggio dentro il rumori di 00 di 451 frammenti sonori, e weakness appunto tocca questi picchi di rumore portato a un eccesso che però appunto dà una struttura poi a air conditioning anche molto particolare, quasi rockistica poi per molti aspetti. Ci andiamo appunto ad ascoltare in questo loro piccolo grande gioiellino degli anni zero, che è Weakness. We'll be right back. una sorta di tribalismo delle caverne, un noise che si trasforma in un mantra pauperistico assolutamente fuori da ogni canone misticheggiante, oppure con una mistica veramente, si potrebbe dire, della discarica, come d'altronde molti dei suoni questa sera provenivano da sorte di discariche assolutamente creative, genialoidi, con Skaters si va a toccare appunto questa sorta di matrice psichedelica andata non a male, ma di più una putrefazione psichedelica veramente degna di un uomo cavernicolo che cerca appunto una sorta di via mistica impossibile. Skaters portano al paradosso quella psichedelia californiana che tra l'altro per certi versi li vede anche addentro alla faccenda, perché sono californiani Skaters, e appunto connettendosi con il mondo del Midwest, ad esempio ascoltato prima con Barney Starkor, ma anche quello di Brooklyn, quindi Wolf Eyes, Providence, eccetera eccetera, Fort Apache in questo caso diventa una sorta di miraggio per appunto massacri mentali di appunto di indiani in preda veramente a squilibri misticheggianti e sanguinolenti. Scusate il gioco qua di parole un po' assurdista che sto facendo, ma la musica di Skaters è veramente qualcosa di imparagonabile, un viatico dell'impossibile, quindi difficile anche presentarli degnamente o indegnamente, come forse sarebbe più il caso. Prima appunto Barney Starkor, una sorta di plagiarismo soprattutto nei primi dischi, un'elettronica manomessa e fatta diventare una sorta di gliceria, però senza quell'apporto tecnologico dato ad esempio dalle varie glicerie europee, e poi un percorso che l'ha portati verso la drone music, non questo tipo tribaloide di drone, se vogliamo considerarlo tale, insomma, di Skaters, ma un drone con anche suggestioni, perché no, cosmicheggianti, seppur appunto con effetti assolutamente lo-fi e volutamente anche tali, con Burning Starkor, e così unendoli alla follia rockistica e portando appunto le estreme conseguenze da Air Conditioning, hanno fatto un po' come dire una sorta di passaggio dal Midwest alla California del suono ultra noise americano, tanto per rimanere dentro le follie di Rumori 00 questa sera, appunto questa notte di 451 frammenti sonori. Abbiamo fatto questo ulteriore passaggio, ma vi avevo detto che avremmo finito con l'Europa, così è. Andiamo a prendere uno dei cardini, dei pilastri del rumore più trattato, più sperimentato nelle sue possibilità, sia strutturali sia quelle invece più legate a una sorta di pop astruso, come quello appunto di Bruce Gilbert, grandissimo già Wire, quindi sperimentazione di un punk portato alle estreme conseguenze, quindi fatto entrare dentro quella onda nuova new wave appunto, che si connetteva però più alle sperimentazioni sicuramente di matrice industrial, soprattutto gli ultimissimi Wire del primo periodo, per poi approdare con i Dom, una sorta di suono panasonico 10 anni prima, poi la carriera appunto solista di Bruce Gilbert, che è ancora molto molto attiva, Table of Elements sta stampando gli ultimi lavori, quindi la dice lunga come un'etichetta attentissima alle avanguardie sonore, appunto sia dentro le musiche di Bruce Gilbert e viceversa. Chiaramente Order, un gioiello degli anni zero, il maestro Bruce Gilbert continua a manipolare e a entrare dentro le frequenze del rumore magistralmente. In effetti tanto è stato maestro che anche Pansonic hanno voluto fare un disco insieme a lui proprio per tributare un omaggio. Pansonic, poi lo dicevo già nella prima parte della trasmissione, sono coloro che hanno tributato in maniera esplicita i loro riferimenti musicali anche per dare un seguito a un portato musicale che per certi versi è stato anche così sottaciuto per alcuni anni, quindi fare ritornare uno scabroso e un urticante sonoro di grande creatività finalmente insomma a quello che la generazione legata alle musiche glitch, post glitch, e poi appunto con il proseguo delle sperimentazioni dentro il rumore soprattutto americane, ma appunto anche con questa particolarissima via europea, soprattutto Gilbert, soprattutto Ethenor, ascoltati prima, e Pansonic, appunto citatissimi questa sera come pilastro insomma del rumorismo europeo degli anni zero, soprattutto con il capolavoro che è sto Order. Quindi, per finire così alla grande, potremmo dire così, sì, diciamo, con Bruce Gilbert, io vi rimando alla settimana prossima per 451 frammenti sonori, quindi un saluto da Max Macchia. Chissà cosa diavolo esploreremo, non lo so ancora, io ed Eliseo Scarpa. Non vi resta che andare su 451.noblogs.org per ascoltare questa e altre trasmissioni, se già non lo state facendo, magari siete appunto connessi con il vostro computer sul nostro blog, blog che comunque prevederà anche la trasmissione della prossima settimana. E con questo appunto io dico veramente basta, vi lascio agli ultrasuoni trattatissimi, però in questo caso non più come Skaters di Bruce Gilbert, e vi rimando appunto al prossimo 451. Ciao e fate i bravi, insomma, lo dicevo anche da un po', da parte di Max Macchia.